Sí, hay que solicitarla. Forse è meglio che rispondi a blocchi. Sì, giusto, giusto, giusto. Una penna, ragazzi, ce l'abbiamo, che io l'ho lasciata lì. Non ho messo questo qui. No, anche perché siccome immagino ci sono domande sì. A cui rispondi insieme. Prego, 1, 2, allora un momento, 1, 2, 3, 4, vabbè. Facciamo questo primo blocco. Io avrei tre domande, diciamo due di dettaglio e uno un po' più sostanziale, no, perché sono argomenti molto attuali e poi che vengono da fonti, diciamo così, di... cioè noi tutte queste informazioni le abbiamo dalla televisione, dai giornali, da certa stampa, ma... però si percepisce che sono... Non sono un granché queste informazioni, mentre oggi abbiamo un'occasione direi molto, molto larga per poter, diciamo, togliere meglio magari, tra virgolette, una verità nostra storica politica. Allora io avevo due domande che sono un po' di dettaglio ma più sostanziali. Allora, dove sta, il primo dettaglio, l'importanza e il significato di questa guerra spaziale? Cioè, qual è rispetto al passato che a chi conviene e che cosa, cioè due nazioni, non so, Cina e Stati Uniti che si combattono abbattendosi i satelliti, si mettono in crisi le telecomunicazioni, ma non so che cosa c'è d'altro dietro, sono lì. Seconda cosa, si sente parlare di Al-Qaeda eccetera, ma che cos'è però? Da dove arriva, chi sono, che scopo hanno, a quale centro di potere mai esiste veramente, o è un fantasma che viene tirato fuori all'autore. Poi la terza domanda che è più sostanziale, in tutto questo quadro che è stato fatto, in questa scacchiera di nazioni, di potenze, eccetera, le classi sociali trasversali avranno un buon ruolo o saranno solo delle pedine nazionali da utilizzare in questa... Giusto. No, non era una domanda, era un missile a più testate questo. A testata multipla. Guerra finanziaria. Se c'è il prodotto di una destabilizzazione economica è un autogol. Esatto. E poi volevo sapere tramite feudali riguardo la Russia indiana. In che senso sono feudali? Sì, sì. Una domanda riguardava l'Europa e l'Italia politica, cioè come è possibile l'Europa in cui c'è una grande diversità politica, culturale, poter anche avere un obiettivo, cioè è molto utopistico, diciamo, come obiettivo, cioè non è molto fattibile in Europa e se è possibile in semplice modo. Secondo che guardava l'Islam, lei diceva che i militari da ribelli contro l'Europa sono diventati più occidentali, diciamo. Ma perché allora diciamo un Palestina ad esempio o il Libano invece, il corpo militare invece non sembra fortemente occidentale? sì, beh, sì, certo, questo, d'accordo. Cioè, comunque, alla fine, con grande dolore, a livello di sì, sì. A livello politico, ma a livello di testa, alla fine, le 15 linee sì. Politiche. E poi, l'ultimo due punti. Il fatto di, diciamo, legato all'Italia, alla nostra società, ma il fascismo è ricollegabile al fenomeno cioè l'Islam può essere fascista per cazzate di Pipes di sì, di Pipes di Inchest di Evis, no? Sì. Per cazzate che vanno a dire sì. Obama, secondo me, come ha girato a livello cioè, vabbè, questo organizziamo una serata di tarocchi e vediamo come va. Va bene. Ultimo di questo giro, Fabio. Volevo conoscere il vostro parere riguardo le prospettive future dell'attuale guerra in Afghanistan, alla luce anche questo sarò alla le prospettive future della guerra in Afghanistan. Ah, Afghanistan. La previsione, non so, in breve termine, anche alla luce del coinvolgimento italiano che sta crescendo sì. Esponenzialmente. Bene, rispondiamo a vedere prima le cose più semplici. Ma nel libro si sostiene che io la guerra spaziale è altamente improbabile, a mio avviso, almeno nel senso che, per quel che io leggo, anche negli Stati Uniti si ritiene che uno scudo spaziale di assoluta sicurezza ha dei costi pazzeschi e non è un grado di realizzabilità molto problematico. E credo però che avere anche la possibilità non di fare, ma di combattere anche una guerra spaziale ostacolando le comunicazioni, lei ha detto molto bene, tutte le comunicazioni così, anche i nostri navigatori sulle macchine sono legati ai satelliti, quindi avere la possibilità di combattere una guerra delle comunicazioni va tenuto presente nel quadro della guerra asimmetrica. Come aspetto più per quanto riguarda l'America Latina, poi rispondo alle altre domande che sono più per quanto riguarda l'America Latina è altrettanto divisa quanto è l'Europa, non si parla, ci sono intese fra i vari paesi, il solo paese che può avere la possibilità di diventare una potenza a livello mondiale, non però sotto il profilo militare, è il Brasile. Io ho sottolineato questo aspetto, il ruolo dell'America Latina, perché è una delle aree di possibile instabilità futura, perché da un lato questa tendenza ad acquisire autonomia negli Stati Uniti è senz'altro in atto ed è una tendenza molto forte e si avvale anche della benevolenza delle elite militari, diversamente dal passato, mentre gli Stati Uniti, in un momento nel quale è in discussione la loro egemonia planetaria, saranno comunque molto riluttanti ad accettare le conseguenze ultime di questa richiesta di autonomia dell'America Latina. E lo cito solo per sarà uno dei problemi che avrà di fronte Obama, perché non credo che si possa qui parlare di che cosa farà o di quali saranno le sue prospettive. Io ritengo che vi sono degli aspetti di continuità della politica americana, sia della politica economica sia della politica imperiale, che sono molto forti e non credo che Obama li potrà modificare né radicalmente né tantomeno rapidamente. A proposito dell'Afghanistan, colgo l'occasione per risponderle, ha detto che invece lo sforzo militare americano e della NATO va potenziato in Afghanistan, propone il ritiro dell'Iraq ma ritiene che in Afghanistan bisogna continuare a combattere. Tra l'altro è una situazione difficilissima perché la guerriglia afghana, soprattutto nell'area Pashtun che sta a cavallo tra il Pakistan e l'Afghanistan, ha tenuto in scacco gli inglesi all'inizio del Novecento, i russi quando erano una potenza mondiale, gli americani ora, e già i più esperti, i comandanti inglesi sul campo dice che questa guerra non potrà essere evitata, tutt'al più bisogna evitarne gli effetti più destabilizzanti. E quanto all'Italia, è assolutamente secondaria la nostra presenza lì, è solo se serve, è un fatto più legato alla politica interna. Essere presenti in Afghanistan è fuori di dubbio che dove non sono riusciti né gli inglesi né i russi né gli americani, adesso vogliono mandare qualche tornado. Il dinamico, la russa dice manderemo i tornado, ma figuriamoci se i tornado sapranno fare quello che non hanno fatto, ripeto, né gli inglesi né i russi né gli americani. E di nuovo, per quanto riguarda Obama e le prospettive dell'Iran, qui le opzioni sono molto incerte. C'è già un paese islamico con la bomba atomica, che è il Pakistan. Il problema dell'Iran consiste nel fatto che l'attuale premier Ahmadinejad unisce un progetto di energia nucleare a fini dice pacifici. Dice, certo, l'Iran oggi ha molto petrolio, ma il petrolio si sta esaurendo e quindi noi dobbiamo avere un'altra fonte di energia, sempre a fini pacifici. Però contemporaneamente dice che Israele è condannato dalla storia, cosa che in Pakistan evidentemente non si dice, ed è questo che fa temere il rischio di una eventuale bomba atomica iraniana, che loro dicono di non costruire, ma che forse potrebbero costruire, e che appunto si collega a questa accentuazione della polemica contro Israele. D'altro canto, gli esperti militari americani sostengono che le centrali nucleari iraniane sono in profondità e quindi non si potrebbe fare un blitz con armi convenzionali, come fecero già gli israeliani nell'81 in Iraq, quando l'Iraq stava costruendo una centrale nucleare e gli israeliani la bombardarono con armi convenzionali. Questo non sarebbe possibile, e per colpire gli impianti nucleari italiani e iraniani più in profondità occorrerebbero atomiche tattiche, il che cambierebbe completamente. Certo, sarebbe sempre un aspetto di guerra asimmetrica, nessuno dichiarerebbe guerra, sarebbe un'arma estrema di tutte le armi generali delle quali abbiamo parlato, dal terrorismo ai sindacati, però sarebbe un fatto nuovo. Per la prima volta dopo Hiroshima verrebbe usata un'arma atomica, sia pure tattica. Obama sembra escludere questa eventualità, che talvolta nei circoli attorno a Bush era stata avanzata, oltre che in Israele, ma Israele non so se possa correre un rischio di questo genere senza un avallo americano. In questo ambito, una delle valutazioni per le quali è stato criticato è che Obama dice che bisogna trattare con chiunque, anche con chi ci è ostile, e quindi sembrerebbe escludere quella opzione, colpire con armi atomiche tattiche le centrali nucleari iraniane. Questo è quello che si può dire allo stato attuale della questione, che si collega all'altra, che dice che cos'è Al-Qaeda. Ma adesso i giudizi che si possono dare è che Al-Qaeda era inizialmente un'organizzazione centralizzata, forse attorno a Bin Laden, forse un'organizzazione fantasma, lei dice. Ci sono dei dubbi anche negli Stati Uniti sulla sua effettiva consistenza. Quello che sembra più attendibile è che oggi ci sono gruppi terroristici che hanno preso Al-Qaeda l'11 settembre come modello, a parte tutti i dubbi che ci sono su cosa è stato in realtà l'11 settembre, qualche accenno c'è nel libro, ma qui non mi inoltro su quel terreno, che comunque, per quel che se ne sa, dopo l'attentato dell'11 settembre non è stato più fatto nulla di simile. Neanche l'attentato che sembra più vicino a quello dell'11 settembre, quelli a Madrid, sono di tutt'altra caratteristica, e probabilmente oggi abbiamo solo dei gruppi terroristici non centralizzati e che possono commettere attentati, li hanno commessi da Bali all'India, di portata abbastanza limitata, quello che si possa dire. E credo che sia significativo che anche nella recente campagna elettorale americana il tema è quasi scomparso dai dibattiti, quindi non è, questo per quel che ne sappiamo ora, ma siccome non sappiamo ancora abbastanza su che cosa è effettivamente accaduto l'11 settembre, sorprese sono sempre possibili. Per ora, appunto, ripeto, non è un fantasma, non è neanche una possente organizzazione, sono probabilmente gruppi in grado di compiere solo attentati limitati in alcune aree, forse, quelle delle classi sociali e più. Perché ho definito un po' il regime indiano che ho usato? Perché sono delle grandi famiglie, la famiglia Gandhi e la famiglia Nehru, sono nella quale è entrata anche la Sonia Gandhi, questa nostra piemontese. E nel libro ci sono tutte le citazioni, mi sembra che sia la definizione, grandi famiglie come il Giappone, e in Giappone c'è un, è sempre governato dallo stesso partito che si dice liberal democratico, e anche la sono delle, le grandi famiglie proprietarie delle grandi holding finanziarie, e questa è la stessa situazione in India. Che poi formalmente vi siano periodiche elezioni, a mio avviso è scarsamente significativo, per questo le fa anche Putin, Putin fa favore, anzi c'è persino che non può fare il presidente più di due volte consecutive, allora si è trasferito a fare il premier, ma vi è un aspetto sul quale hanno molto insistito i neocon americani, che democrazia equivale a elezioni, no, la democrazia non equivale a elezioni, le elezioni garantite sono un aspetto del funzionamento di un sistema che è liberal democratico, che necessita, c'è tutta una ricchissima letteratura, io cito sempre Dolke, il migliore dei politologi liberal americani, per i quali le elezioni sono un aspetto della selezione dell'elite quando ci sono tutta una serie di altre condizioni, se no fare elezioni le fate anche in Iraq, le fanno anche in Afghanistan, non ha nessuna. La domanda sulla la sua sull'identità europea, non sono troppo diverse le nazioni europee? No, io penso che le nazioni europee dell'Europa occidentale, la cosiddetta Europa di Carlo Magno, è un po' diversa dalla situazione per quelle dell'Europa orientale, che tra l'altro in questo momento sono più dei punti di riferimento della politica americana in Europa che punti di riferimento della politica europea. Io credo che si possa pensare all'Europa come soggetto politico solo un'Europa occidentale che vada l'Europa di Carlo Magno, per dire la vecchia Europa, Germania, Francia, Italia, Benelux, più la Spagna, più Portogallo, forse, non so, ma l'Europa orientale, ecco, dimostra, ho già ricordato, l'accettazione di basi americane ai confini russi, che è il frutto della loro preoccupazione nei confronti della Russia, ma che in questo momento Estonia, Lettonia e Lituania sono un aspetto della politica mondiale americana, non sono un aspetto della costruzione dell'unità europea. Invece nell'altra area le identità di storia e di tradizione sono piuttosto forti, e le difficoltà alla costruzione di un soggetto politico, secondo me, deriva soprattutto dalle elite politiche nazionali molto riluttanti a cedere sovranità. Di questo si parla nel libro, e mi pare che sia questo il problema. Vi è un'area dell'Europa, l'Europa dei 27 non si farà mai, non sarà mai possibile, e tantomeno la si farà se ci si aggiunge la Turchia. È possibile più o meno un'Europa dei 15, che fu un certo stadio della costruzione europea, che ha invece questa identità di tradizione culturale e di istituzioni liberal-democratiche. Abbiamo allora poi l'altra sua domanda riguardava l'Islam e gli Hezbollah. Sì, no, gli Hezbollah sono certamente una forma di risveglio islamico, non sono propriamente, io facevo una riflessione che riguardava le elite militari dell'Islam, degli Hezbollah si parla nel libro, e conducono una forma di guerra molto locale, molto limitata, ma che ha tenuto in scacco Israele. Per la prima volta Israele non ha vinto una guerra che ha promesso in Medio Oriente, anzi ha messo in crisi la stessa lì politica e militare a partire da ora dello Stato di Israele. Ma gli Hezbollah non sono un fenomeno che rientra nella storia delle elite militari prima anti-occidentali e poi filo-occidentali, sono un partito di insediamento sociale di forte ispirazione religiosa che è certamente anti-occidentale, ma che ha un'altra origine. E sempre per rispondere a lei, questa idea del fascismo islamico è una concezione nata da Peirce, da Christopher Hitchens e soprattutto da alcuni politologi o studiosi che spesso come Hitchens vengono dalla sinistra, che fanno dei paralleli del tutto inappropriati. I fascismi degli anni 30, il fascismo, il nazionalsocialismo tedesco, altri, lo stesso falangismo spagnolo, le guardie di ferro romene, sono un fenomeno che non ha nulla a che fare col risveglio islamico. A me sembra una categoria, ecco, in questo caso fantasmatica. Non c'è un fascismo islamico. C'è stato un momento nel quale, l'ho ricordato, delle élite militari, soprattutto in Egitto, e in qualche misura anche in Iraq, l'Iraq, con due militari iracheni nel 41 tentarono di sottrarre l'Iraq all'influenza inglese, sperando in un aiuto italo-tedesco che non venne. Quindi quello fu un momento nel quale delle élite militari vedevano nel fascismo, nel nazionalsocialismo, in quanto nemici dell'Inghilterra e della Francia, che aveva un protettorato sulla Siria, dei possibili alleati. Questa vicenda è finita con la fine del fascismo e del nazismo. L'attuale risveglio islamico ha tutt'altre radici culturali e tutt'altre impostazioni politiche. Della guerra finanziaria, come si possa sviluppare, credo che si possa dire quello che adesso ha detto il professor Giannulli, che può essere un aspetto generale della guerra simmetrica. Quella attuale non mi sembra una, per quanto se ne sa, nessuno suppone che possa avere un'origine diversa, anzi si invoca addirittura che la Cina o i fondi sovrani arabi dovrebbero aiutare gli Stati Uniti o l'Occidente in generale da uscire da questa crisi. Non c'è nessuna, io non qui ci hanno pensato i banchieri occidentali, appunto, esattamente così. L'ultima domanda è quella centrale, è certamente che qui si parla di Stato e di elite, e lei dice cosa avviene delle classi sociali. Beh, certo, questo è un problema aperto, io ho scritto qualcosa in altri momenti, forse ne scriverò. Per il momento le classi, come si diceva una volta negli anni 60 quando io stavo tra Trento e Milano, di per sé, se vogliamo pensare al proletariato salariato, le statistiche dell'ILO, l'International Labour Organization, dicono che oggi su 6 miliardi e mezzo di abitanti del pianeta la popolazione attiva è rappresentata da 3 miliardi di persone, un po' meno della metà, e di questi, di questo miliardo, la metà, un miliardo e mezzo, è rappresentata da salariati. Se dovessimo usare questo criterio marxiano o marxista, direi abbiamo qui un miliardo e mezzo di proletari nel senso marxiano del termine, un quarto della popolazione del mondo, un immenso potenziale rivoluzionario, ma di fatto non sono un soggetto attivo. Intendiamoci, ci sono delle rivendicazioni che si manifestano qua e là. In Corea, per esempio, esiste un'organizzazione sindacale di una certa consistenza, c'è un forte sindacato tessile in India guidato da una donna, si cerca, persino in Cina si cerca di organizzare dei sindacati, cioè anche in aree molto lontane. Abbiamo i tradizionali sindacati occidentali, però che adesso si limitano a quando possono a difendere il welfare. Vi ripeto, le classi sociali, soprattutto la classe ribelle, perché poi naturalmente dicevi prima che possiamo immaginare un eventuale blocco finanziario marziale come una classe egemone nel senso marxiano della classe egemone, marxiano e gramsciano della classe egemone. Ma per quanto riguarda invece le classi sociali subalterne, la loro soggettività in quanto classe autonoma, dico, di fatto, ripeto, ce ne sono un miliardo e mezzo di salariati, però non si manifesta. Abbiamo dei tentativi di organizzazione sindacale anche in aree come l'India o la Corea, abbiamo dei sindacati in Occidente, ma del tutto all'interno del sistema del capitalismo maturo, e quindi questo sembra essere questa per ora la situazione. Poi naturalmente ci si può riflettere molto di più, si può vedere, ma appunto nel libro non si tiene conto di questo fattore, tanto perché il soggetto è molto specifico, è un rapporto tra elite militari e democrazia rappresentativa, e poi perché grandi manifestazioni della soggettività di classe, della classe come soggetto, in realtà io non riesco a vederlo. Prego. Scusi, mi aggancio a questo discorso, scusate se facciamo un passo indietro di un secolo, no? Ma quando agli inizi dell'evoluzione russa, no? Ha potuto succedere, determinarsi, proprio perché c'è una guerra mondiale. Certamente, certo. Però, diciamo, il tentativo, perché poi con un tentativo subito, certo, certo. Nel messo tacere, di creare questa evoluzione, portare al potere una classe sociale che fosse diversa dalle oligarchie comunque tradizionali, poté, diciamo, svilupparsi per questo tentativo, almeno fino alla morte di Lenin, per due motivi. Primo, perché ci fu una potente guerra mondiale che creò, che aprì una finestra allo spazio. Secondo, perché era stata costruita una rappresentanza di classe. Certo. C'erano dei partiti, degli organi di stampa, sì. Cosa che oggi non vediamo. Vediamo, come detto lei, 1,5 miliardi di persone per campagne, di call center, la precarietà, eccetera, che magari hanno alcune forme sindacali anche abbastanza incisive e potenti, ma quello che manca è una rappresentanza politica. Certo. Chiedo lei, tornando agli studi, in questi futuri contrasti, secondo lei dobbiamo perdere ogni speranza, nel senso saranno solo contrasti tra oligarchie e dittature? No, può darsi che in una situazione conflittuale. Il libro si conclude con alcune ricerche fatte da una commissione americana composta da generali ed ammiragli e da una commissione insediata dallo Stato Maggiore inglese, che prevedono per i prossimi decenni conflitti che potranno anche assumere, in quello inglese si fa esplicito riferimento a Marx, che fanno esplicito riferimento a possibili conflitti che strutturati secondo conflitti di classe. Anzi, in questo studio inglese che io cito si vede addirittura non il proletariato classico ma un ceto medio impoverito, ma come classe sociale, farsi protagonista di conflitti di modello marziano. Quindi persino le elite militari non lo escludono.